filo, segnando il nostro cammino. E so già che vuole averla sempre finta lui. Anna, duello duro col tempo, con il passato e il presente. Eppure oggi li dovrò filare i denti. La luce rossa dice già corrente, perché qualcosa stimola la mente. Il mio futuro è nel passato e nel presente. Ehi, ma dove sei? Che cosa aspetti ancora? Prendi in mano i tuoi anni, il tempo non lo inganni. Vai, trova l'interruttore, gioca la tua partita, non sarà mai finita. La cosa col tempo è in salita, forse è la mia preferita. Eppure oggi mi dovrò affilar le unghie. La luce rossa dice c'è corrente, perché qualcosa nasce nella mente. Il mio futuro è nel passato e nel presente. Sai che cosa aspetti allora? Prendi in mano i tuoi anni, il tempo non lo inganni. Vai, trova l'interruttore, gioca la tua partita, non sarà mai finita. Rossa dice c'è corrente, perché qualcosa stimola la mia mente. Il mio futuro è nel passato e nel presente. Hey, ma lo sai che caccia aspetti ancora? Prendi in mano i tuoi anni, il tempo non lo inganni. Vai, trova l'interruttore, gioca la tua partita, non sarà mai finita, non sarà mai finita, non sarà mai finita. Oh,